Perché il mal di denti non inizia di colpo. Prima lancia dei segnali. Solo che, come tutte le cose che mandano un segnale, prima o poi si palesano. Per quella vecchia regola teatrale che se entra in scena una pistola, prima o poi quella pistola sparerà. Ecco, ieri è partito il colpo. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16.09, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. Innanzitutto, prima di qualsiasi cosa, devo leggere un messaggio che è arrivato prima della diretta. 349-238-6666. Ciao Matteo, sono ad Asola, per lavoro. Ho visto tanti fiocchi azzurri appesi alle porte. Quante nascite, ho pensato. Tutti bei maschietti. Invece sai cos'erano? Erano sacchetti della raccolta differenziata. Lo dici tu al mio capo che ho bisogno di ferie? Ciao Luke. Secondo me è Luke. Mandi un messaggio a lui. E fai prima. Io mi scuso in anticipo se oggi dovessi parlare peggio del solito, che so che sembra un parossismo, però mi si sta riassorbendo in questo momento l'anestesia del dentista. E, insomma, mi sembra che sia tutto a posto, però dovesse mai uscire qualcosa di strano dalla mia bocca, il motivo è quello lì, perché appunto era da qualche giorno che sentivo, non so se vi capita mai, che avete un dolorino però fate finta di niente. No, un po' di solito è per la paura del dentista, al punto che quando raccontavo prima e quando vi racconterò poi a breve, quando raccontavo prima di com'è andata stamattina dal dentista, Vittoria Mussini si è dovuta sedere perché solo il fatto di sentire parlare del dentista le faceva venire le gambe molli, così lei ha detto. Quindi non so se vi capita, però delle volte c'hai sto dolorino al dente soprattutto, oppure che so io, a un braccio, e fai finta di niente, no? Boh, passerà, ma sì, non sarà niente. E poi a un certo punto non puoi più fare a meno di nascondertelo. Ecco, questa cosa è successa questa notte. Prima di questa notte, quando ancora facevo finta che fosse tutto a posto, sono stato a cena con un amico e siamo arrivati proprio su questo argomento qua, sul fatto di nascondersi delle cose che non sono solo il mal di denti, ma far finta di niente riguardo a delle cose che probabilmente noi abbiamo in testa da un po' e che però preferiamo tenerci nascoste, non si capisce bene il perché, per lo più per paura. Nel suo caso proprio è venuta fuori questa questione parlando di una puntata di qualche settimana fa, che era una puntata in cui io raccontavo di un incontro con Rafa Nadal, che è questo tennista, cioè questo, perdonatemi, è il tennista del momento, essendo il migliore al mondo, essendo al numero uno, essendo il numero uno. Insomma, quest'estate io sono andato a raggiungerlo, non so se vi è capitato di sentire quella puntata, non ve la rispiego. Se volete sentirla trovate il podcast, come il podcast di tutte le puntate lo trovate sul sito e su iTunes. Insomma, io l'ho incontrato e ho realizzato uno di questi desideri che dovevo realizzare. Questo amico ieri sera, mentre cenavamo, mi raccontava che questa puntata lo aveva colpito per il fatto che lui di fatto si è accorto, e lui ha 34 anni quest'anno, che lui di fatto non sa nemmeno quali siano i suoi desideri. Cioè, che se ci deve pensare un po' per realizzare quali sono le cose che gli piacciono veramente. E poi mi ha detto: sai cosa? Io mi sono accorto che io i miei desideri, le cose che mi piacciono, delle volte me le nascondo. E io gli ho chiesto per quale motivo. Lui mi ha detto: perché ho paura di non poterli realizzare. E se realizzo che non li ho realizzati, questa cosa mi è un fallimento, no? Questa cosa mi deprime. Mentre ne parlavamo è venuta fuori un'altra storia che ha a che fare proprio con i desideri e con il nascondersi le cose. E riguarda sua mamma, che è una psichiatra. Sua mamma è una psichiatra e lavorava prima al Paolo Pini. Per chi non lo conoscesse, il Paolo Pini è l'ospedale psichiatrico che c'era a Milano, l'ex ospedale psichiatrico. Adesso c'è un grande parco, ci fanno una rassegna estiva. Per lo più i pazienti che si trovavano all'ex Paolo Pini di Milano, alcuni risiedono ancora lì, altri invece sono stati sparpagliati non so dove, in altri centri, in giro per la città. Sua madre quindi, che lavorava lì, li ha persi di vista. Dopo qualche anno è stata chiamata da un ospedale perché uno di questi pazienti, a cui lei era particolarmente affezionata, era in ospedale per una malattia molto grave, e l'ha cercata perché aveva voglia di salutarla. Lei stessa, io la conosco questa donna, mi raccontava che queste persone chiaramente hanno tanto tempo per pensare, quindi lei li ascoltava molto, non solo perché aveva bisogno e doveva cercare di guarirli, ma perché proprio aveva bisogno di stare con loro per capire come pensavano. Insomma, questo tizio l'ha mandata a chiamare mentre era nel letto d'ospedale e a un certo punto ha detto: dottoressa, se lei non vuole ammalarsi, realizzi i suoi desideri, altrimenti fa la mia stessa fine. Ecco, questa cosa è venuta fuori ieri con questo amico Claudio, e mentre parlavamo di questa cosa e del fatto che spesso ci nascondiamo delle cose che ci piacciono o delle cose che ci fanno paura, siamo giunti entrambi alla conclusione che c'è un momento, ed è un momento abbastanza particolare, che è un momento che ha a che fare proprio con l'illuminazione, per cui accade qualcosa che ci fa capire che c'è una cosa che non ci piace o che c'è una cosa che invece ci piace troppo per far finta di niente. Lui dice che spera che gli arrivi questo momento, perché ancora non gli è arrivato, ma prima o poi gli arriverà. Sapete, quando ti accorgi, succede qualcosa e ti accorgi che quel lavoro lì non ti piace più e non puoi più fare finta di niente, che quel passatempo invece che ti piace troppo e non puoi fare finta di niente, non puoi fare finta che rimanga solo un passatempo e magari cerchi di farlo diventare il tuo lavoro. Momenti in cui ti accorgi che vivere in quel posto non ti piace più e non puoi più fare finta di niente. 800240024 oppure 349-238-6666, perché di solito accade in un momento molto preciso della vostra vita, della nostra vita, ed è quando ti accorgi che non puoi più nasconderti che quello che stai vivendo in quel momento o ti piace troppo oppure non ti piace più. E quindi tutto ciò ha a che fare in qualche modo con i desideri che vogliamo realizzare. 80024 oppure 349 no 80024 0024 oppure 349 238 6666, perché oggi vorrei proprio sapere qual è stato il momento in cui avevate capito che non potevate più nascondervi quella roba lì, che non potevate più nascondervi ad esempio che vi piacevano gli uomini invece che le donne o le donne invece degli uomini, che quel ragazzo ti piaceva troppo per non dirlo. È arrivata una mail un attimo fa al profilo Facebook del programma di Paola, che è perfetta, e dice: era da un po' che non ci pensavo, così ho scritto una mail ad un ragazzo che non vedo e non sento da 2 anni, dopo che tutto a un tratto ero sparita. Questa storia, ti annuncio, non ha un lieto fine. La sua mail però è stata di grande lezione. Mi ha scritto: sono molto contento, Paola, che tu abbia compreso che è arrivato il momento giusto per spiegarsi. Il problema è che è un po' troppo tardi. Ecco, non fate che sia troppo tardi. 80024 0024 oppure 349 238 6666, perché il momento in cui mi sono accorto che non potevo più nascondermi il mal di denti è stato forte, ed è stato così. Perché avete presente il mal di denti, no? Cioè, avete presente come viene il mal di denti? Non è che parta di botto, no? Cioè, non è che tu sei lì e improvvisamente boom, esplode come una bomba. No, comincia come un indolenzimento, come qualcosa che ti fa sentire che ce li hai, i denti. Perché è strano, però, come tutte le parti del corpo si palesano i denti solo quando sono doloranti. Ad esempio, non mi sono mai accorto di avere un fegato fino a quando non ho mangiato troppo salame di Cremona. Mi dimentico sempre quanto uso un dito della mano fino a che non faccio un minuscolo taglio sul polpastrello, e che ogni volta che mi duole mi ricorda che sto usando quel dito lì. Ecco, il mal di denti è la stessa cosa. È partito molto dolcemente, quasi fosse solo un pensiero, domenica sera, mentre tornavo a casa in aereo. Non era un vero e proprio dolore, al punto che non capivo se stavo pensando all'ultimo dente in basso a destra perché mi faceva un po' male, oppure se mi faceva un po' male perché avevo iniziato a pensarci. Poi sviluppo immediatamente una grande barriera al dolore, che consiste nel trovare ottime scuse che lo giustificano. Tipo, sono un po' stanco, oppure ho mangiato poco quindi sono debilitato, ho trascurato quella parte del corpo o comunque la mia salute in generale. Domenica invece la scusa era perfetta ed era semplice. Sarà che sono in aereo, sarà che sono a 10.000 metri di altezza, quindi la pressurizzazione della cabina sarà tale da causarmi un po' di fastidio al dente. Poi sono sceso dall'aereo, sono andato al ritiro bagagli, ho aspettato l'autobus e sono arrivato a casa, però mi sono dimenticato che qualcosa nella mia bocca mi avesse fatto male. Anzi, per la stessa regola di prima, mi sono proprio dimenticato di avere dei denti in bocca. Ma come tutte le cose che mandano un segnale, prima o poi si palesano. Per quella regola lì, una regola del teatro, che se entra in scena una pistola, prima o poi quella pistola sparerà. Ecco, il colpo è partito ieri sera. È partito di notte. Non so esattamente quando, ma so che alle 3:35 del mattino io ho aperto gli occhi perché qualcuno stava infilando una lama nella mia mandibola. Ci ho messo qualche secondo a rendermi conto che quel dolore lì fosse il dolore al dente. Non lo so, credo di aver avuto 15 anni l'ultima volta che ho sentito un dolore così in bocca. Cioè, non che io sia un fissato del generale, però se uno usa regolarmente lo spazzolino e il dentifricio, di norma il mal di denti lo si riesce ad evitare, no? Alle 3:35 di ieri notte invece non so esattamente cosa sia accaduto, ma tutto a un tratto il mondo era quel dolore lì. Cioè, era come se la mia vita non fosse altro che quel male lì, sordo, costante. Il mio cuore si era trasferito in fondo alla mia arcata dentaria inferiore e me la stava prendendo a pugni. Le ho provate tutte, ho provato ad alzarmi, a sdraiarmi, a camminare per la casa, a sedermi. Mi sono messo al computer, ho acceso la TV, la radio, ho ascoltato la musica. Mi sono messo a fare risciacqui con l'acqua calda, con quella fredda, con il tantum verde, il bicarbonato, l'aceto. Giuro, io non sono ipocondriaco e ho una sopportazione al dolore anche piuttosto alta. Però quella piccola radiazione di sofferenza che partiva dalla mandibola si irraggiava per tutta la testa. Era una cosa che faceva perdere di significato al mondo intero. La notte, il giorno, il caldo, il freddo non avevano più alcuna differenza. Il mio mondo era quel dolore lì. E la cosa più terribile era che non era insopportabile. Cioè, se fosse stato insopportabile, che so, sarei svenuto, magari non sarei qui a raccontarla. No, la cosa peggiore era proprio che nel suo essere forte ma tollerabile era ancora più devastante. Perché in teoria io avrei potuto continuare a vivere con quel dolore per tutta la vita, senza per questo morirne. Ecco, questa idea terribile ha iniziato a girarmi in testa come un tormento. Sono riuscito ad aspettare alle 8 del mattino e poi ho chiamato il mio dentista. Pronto, pronto? Pronto, ciao dottore, sono Matteo, caccia. Ciao Matteo. Come va? Ah, tutto bene, tutto bene. Dottore, io invece no, ho un dolore orribile al dente, un dente qua in fondo. È quello in fondo in basso, a destra. Ah, in basso. Ma è qualcosa lì, un'otturazione? No, no. Anzi, no, mi avevi fatto un ponte tu tipo 2 o 3 anni fa. No, ma ti batte, pulsa o è un dolore costante? Beh, il dolore è costante, però sì, però ogni tanto pulsa. Ah, mi date il giudizio. Sì? Sì, da qui... Penso che sia il detto al giudizio. Che facciamo? C'hai domattina? Cioè stamattina anche magari? Adesso? Un'ora libera? Vieni alle 10. Alle 10? Ok, grazie. Vai. Ce la faccio. Ciao, grazie. Arrivo dal mio dentista a Novara. Perché lui è il mio dentista, e il dentista è un po' come la squadra del cuore, non la cambi mai. Perché farsi infilare le mani in bocca è una cosa molto intima, e quindi preferisci sapere chi è che lo fa. Lui è romano, però vive a Novara da una vita. Arrivo con il dolore che continua, ma con il sollievo di chi spera che lui saprà che cosa fare. È un sollievo misto a qualcosa di strano che non so esattamente cosa sia. Mi fa aspettare 10 minuti, poi mi viene incontro e mi fa sedere sulla poltrona azzurra, quella che si reclina e si solleva. Mi tocca un po' il dente con un arnese, io confermo che sì, il dolore è lì. Poi lui accende il trapano. E appena sento il trapano, capisco che cos'era la sensazione di prima. È che questo suono è terribilmente familiare. Non lo so, forse ci sono dei rumori, ci sono dei sapori o delle immagini che possiedono un messaggio loro proprio, che va al di là dell'esperienza. Cioè, voglio dire, forse se io guardo una torta al cioccolato, anche se non l'ho mai assaggiata, comunque capisco che è buona, perché la sua forma, il suo colore me ne comunicano il sapore. Ecco, la stessa cosa vale per il trapano del dentista. Anche se hai 8 anni e non ci sei mai stato, secondo me, quando lui accende quella roba lì, quel trapano, e tu senti il rumore, a te viene paura, perché sai che ti farà male. Ma prima di infilarmi il trapano in bocca, però, lui prende una siringa e mi fa un'iniezione che praticamente non sento nemmeno, perché è comunque meno forte del dolore al dente. Fa passare 5 minuti e lentamente il dolore inizia a passare. E a me sembra che il mondo riprenda forma e colore. Lui dice che l'anestesia è talmente forte che durerà 2 giorni, ma che se sento male devo alzare la mano sinistra. Il trapano preme contro il dente. Il rumore acuto cambia e si fa un pochettino più cupo. Lui si sporge per guardare meglio nella mia bocca, estrae il trapano, cambia la punta e riparte. Non faccio nemmeno in tempo a pensare di alzare la mano e sento una scheggia di dolore che si infila nel dente e schizza fino al cervello. Stringo i braccioli della sedia con entrambe le mani, mi lacrimano gli occhi, il dolore è freddo, è gelido, è come se lui stesse spingendo la punta di un iceberg nel buco che ha creato col trapano. Riesce ad alzare la mano, alzo la mano, lui si ferma, il mio corpo è un blocco unico, sono rigido come un tronco. Mi chiede se ho sentito male, io con la bocca spalancata riesco a dirgli un po'. Nessun problema, facciamo ancora un po' d'anestesia. Ecco ora, l'anestesia. L'anestesia è l'invenzione del secolo, cioè una punturina e possono farti di tutto. Non so esattamente cosa mi abbia fatto, però ora la lingua non fa altro che andare lì, su quel dente che sembra diverso dagli altri. Non mi pare più nemmeno la mia bocca. Lui mi ha prescritto degli antibiotici e degli antidolorifici perché dice che il dolore tornerà e che settimana prossima devo farmi ancora vedere. Al momento ancora è tutto a posto, ma il mal di denti è il dolore più brutto che c'è. On my own, what I got, it's small, but it's safe here. Ventisei, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. 349-238-6666. Grazie Matteo, è da una settimana che sono in casa sotto antibiotici per un'infezione al dente. Federico Taddia, Federico ritorna tra noi, ma non era quell'altro giorno Federico? Probabilmente era qui col dolore al dente. Ah, era settimana scorsa, niente, confondo la settimana scorsa con ieri. Ecco, quel momento lì, mi scrive invece Alex da Torino, quel momento lì è adesso ascoltando te. Mi piace una ragazza e voglio mandare a quel paese la mia ex che racconta ai nostri amici, con l'intento di farmi stare male, flirt fallimentare che evidentemente ha avuto quest'estate. Alex, ma per fortuna però direi che è arrivato questo momento. Fai una cosa, 800240024, e ne parliamo, poi magari fai chiamare anche la tua fidanzata. Ciao Matteo, grazie di avermi fatto sentire il trapano del dentista. Ho prenotato per il 6 di novembre un intervento, ma penso di posticipare di un paio d'anni. E come si dice in Veneto, vai in mona, buona giornata, grazie Dennis. Ciao, basta, se no mi mandano tutti esattamente in quel posto lì. Grazie Paolino. Ciao, da quando sono stato in vacanza ho ben chiaro che non voglio più vivere in questa Italia e non posso più fare finta di niente. Viviana, 34 anni, insegnante super precaria. Però Viviana, la vacanza è una roba. No, poi la vita è un'altra, ma che te lo dico a fare, c'hai 34 anni. A 40 anni e figli ormai grandicelli mi sono accorta che volevo qualcosa di più dal mio matrimonio e ho scoperto che invece a mio marito andava bene così. Arrivata troppo tardi, Elena. 800240024 oppure 349-238-6666, perché è di quel momento lì che stiamo parlando oggi. Prima ne parlavo con Alessandro Marcotulli, che è un po' il filosofo di questa redazione, e che diceva che quei momenti lì o quei giorni lì sono quei giorni che valgono anni e che hanno a che fare con la conversione della quantità in qualità. 800240024. Dopo la borsa, io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Nella foto siamo in cima a una vetta. È una, la vetta di una montagna da cui si vede il panorama di sotto. C'è una parte di pianura, invece una catena montuosa che prosegue dritta verso il fondo della fotografia. Il cielo è azzurrissimo. Ci sono un po' di nuvole sparse, ma sono più, credo, nuvole da condensa, perché sono quelle nuvole che ci sono sopra le montagne. In primo piano però c'è una persona che non saprei dire se è un uomo o è una donna, che si trova proprio sulla cima della montagna, in piedi su un sasso, e di fianco a lei c'è un crocefisso gigante. Ha uno zaino sulle spalle, ha un cappello in testa e guarda l'orizzonte. Gonzalo Del Grande, 27 anni. La sensazione che si prova nel raggiungere una vetta non sarebbe la stessa senza i migliaia di piccoli passi che hai faticato lungo il sentiero. Io sono qui. Un po' in viaggio sul sentiero, un po' in contemplazione del panorama. Monte Aquila, 2495 metri. Io sono qui. Consuelo, quindi è una ragazza, perché dalle spalle non si vedeva, però Consuelo, perdonami. 2495 metri sembra un po' pochino, no? Cioè, qui c'è gente che in un attimo, in tre ore, era a 3008. Di fatto, sì, vabbè. Non ce l'abbiamo fatta. Dall'altra vetta siamo a 261 metri seconda vetta. Però non ce l'abbiamo. La prima vetta è stata raggiunta. Sì, guardami però, sembro uscito dalla crisi del 29. Va bene, sarò anche uscito dalla crisi del 29 quando eravamo sul Gran Paradiso, Bonini, però a 3008 siamo arrivati. E anche quello, comunque, anche se stavo male e anche se ho rischiato di non venire più giù da quella montagna, aveva a che fare con il frequentare i propri desideri. Quindi, anche se non l'ho portato proprio a casa la vetta, alla fine ci sono arrivato vicino. Insomma, bisogna stargli addosso alle cose che si vuole fare, altrimenti non si va da nessuna parte, perché la vita va avanti comunque, certo, anche se non vado in cima al Monte Rosa o se non mi butto dal paracadute, la vita va avanti sempre e comunque. È per questo che è meglio stargli un pochettino aggrappati. 800240024 oppure 349-238-6666. Ciao Matteo, io 5 anni fa ho capito che mi ero innamorato di una ragazza e non ce l'ho più fatta stare con quello che all'epoca era il mio fidanzato. L'ho lasciato e mi sono dichiarata lei. Ora, dopo 5 anni, conviviamo da uno. Abbiate il coraggio di sentirvi liberi. Un bacio, Giulia. 8 ottobre 2007. Dopo l'ennesimo eccesso non ho più potuto far finta di non avere un problema con l'alcol. Mi sono rivolto ad un'associazione, sono 3 anni che non bevo, la mia vita è ricominciata e adesso aiuto gli altri a uscire a loro volta. Ho 41 anni e io sono qui, Francesco. Grande Francesco. E poi vabbè, niente, chiaramente appena fai partire il rumore del trapano partono delle patologie non da poco. Sto andando dal dentista perché mi fa male un dente, ho il terrore che me lo tolga. Se ti fa male dovresti avere voglia che te lo tolga, no? La colica renale forse supera il dolore al dente. Matteo, mi sa che ti sei beccato una bella cura canalare. Boh, guarda, se lo dici tu, mi fido. Evitare il dolore è il modo più efficace per renderlo più forte. Adriano da Roma. Prima di andare però alle telefonate che sono arrivate all'800240024, poi mi dicono che lo ripeto 20 volte, però d'altra parte funziona così. È arrivato un messaggio di Alice che dice: anch'io pratico con relativo insuccesso la gentile arte di occultarmi piccole grandi verità, quasi pensassi di non meritare tanto nel bene e nel male. C'è una piccola me stessa da qualche parte nel mio subconscio che zittisce il vociferare della mente come una petulante bibliotecaria pronta a ripristinare il silenzio in sala lettura. Francesco invece nasconde qualcosa di fisico. Nascondo da 12 anni, 7 mesi e 5 giorni un anello di fidanzamento che non ho dato a quella che pensavo fosse la donna della mia vita, e probabilmente lo è ancora. Chissà lei dov'è adesso. So che l'anello è lì, in quell'angolo del cassetto, ma ben nascosto, sotto sotto. Ciao Francesco. 800240024. Andiamo a Milano da Alessandra. Pronto Alessandra? Pronto? Ciao, sei tu? Sì, sono io. Ciao. Benissimo, io sono qui e tu sei lì, e quindi ce l'abbiamo fatta. Esatto. Senti, raccontami quando è stato il momento, cioè il momento dell'illuminazione. Quando è stato e poi cosa è successo? Il momento dell'emozione è stato che dovevo rientrare al lavoro in una grande azienda, ufficio prestigioso, al rientro dalla maternità, e a me è sempre piaciuto tantissimo e non riuscivo a fissare la data per rientrare in ufficio, e mi rendevo conto che non era perché volevo stare esclusivamente con il mio bambino, ma perché non volevo rientrare a lavorare. E quindi cosa hai fatto? E quindi mi sono messa in proprio in un periodo pessimo, perché tipo due anni e mezzo fa, quindi nel momento peggiore economico in cui si possa fare una scelta del genere, ma non tornerei indietro. E come sta andando Alessandra? Cosa stai facendo? Che lavoro è? Io faccio ufficio stampa, e sono stata aiutata da un amico che economicamente mi ha sostenuto, e anche molto moralmente, più moralmente che economicamente, cioè nel senso Però non è che puoi zittire tuo figlio, scusami Alessandra. Esatto. Ma quanti anni ha? Scusami? Quanti anni ha lui o lei? Lei è la grande, ha 6 anni e mezzo, il piccolo ha 2 anni e mezzo. Ah ok, quindi non è lei la causa di tutto, è l'altro. No, è l'altro. Che poi abbiamo capito che non era neanche lui la causa. Non è la causa, certo. No, esatto, era proprio una sofferenza che poi diventava anche fisica, nel senso che poi io stavo male, ho ogni crane, non... Psoriasi. Ma no, quella non mi ricordo. Però dicono che quella sia la roba che viene più spesso, roba alla pelle per lo più. Sì, è vero. Senti, prima cosa facevi invece nella grande azienda? Sempre ufficio stampa. Una grande azienda, è molto prestigiosa. E adesso... Cioè, adesso... Si allontana, capisci, anche i lati positivi, ma non stavo bene e quindi... Dimmi che ufficio stampa di cosa fai, Alessandra, che è una grande passione per gli uffici stampa. Ma io seguo adesso particolarmente internet, il mondo, tutti i servizi internet, portali, realtà nuove. Ok, insomma, come sta andando sto lavoro in questo periodo terribile? Molto bene, io, nel senso, scusami, non sono miliardaria, però sono contenta, lavoro tanto, forse più di prima, guadagno quanto prima, ma con una soddisfazione personale. Ottimo. Che non ha paragoni. Alessandra, grazie mille, viva le illuminazioni. Ciao, alla prossima. Grazie. Rimaniamo a Milano, però andiamo da Mauro. Pronto Mauro? Ciao. Ciao, come stai? Bene, grazie. Ha a che fare con il lavoro anche la tua esperienza? Sì. Io a un certo punto mi sono accorto che non ero più innamorato del lavoro. Nel senso che io prima lavoravo veramente tanto, 12-14 ore al giorno, avevo un'azienda mia che dividevo col mio socio. E cosa facevi, Mauro? Facevamo allestimenti fieristici, per cui stand... Ma per cui sono di quei lavori in cui hai periodi in cui lavori tantissimo e altri in cui lavori di meno, oppure è costante? Fortunatamente il nostro era costante, ma un livello di impegno sempre costantemente molto alto, per cui è un lavoro che puoi fare solo se sei veramente innamorato del lavoro che fai. E quando è che è stato il momento? È successo qualcosa? Sì, è successo che un cliente con cui lavoravamo da anni, collaboravamo veramente da tanto, un giorno mi ha detto: guarda, non lavoro più con te perché ho trovato un competitor che è meno caro di te. E io ho detto: ma com'è possibile? Cioè, abbiamo i prezzi migliori, siamo come la Fnac, diamo il minimo garantito. Sì, solo che per noi c'è anche un solo, non è solo un rapporto di denaro, è un rapporto di conoscenza, linguaggio. Quindi è stata più una cosa umana che non professionale. Esatto, a quel punto mi sono accorto, è stata una luce che ha illuminato il momento in cui ero, non ero più innamorato del lavoro. E cosa hai fatto? Insieme al mio socio, che anche lui era nello stesso, come dire, nella stessa situazione, abbiamo avuto la possibilità di vendere l'azienda. Ci abbiamo impiegato 14 mesi, perché poi comunque non è una cosa semplicissima, ma il 21 giugno l'abbiamo fatto. Ma quindi vivi di rendita? Sì. Cioè, non hai nemmeno... lo dici quasi che ti vergogni, Mauro? Un po' sì. Ma come ti vergogni? Cioè, hai fatto un lavoro, hai guadagnato dei soldi, adesso te li godi, non funziona così? Sì, funziona così. Io ho sempre lavorato per obiettivi. No, non ti sento convinto però, Mauro, devi essere più convinto. Cioè, sì, lo sono. Nel senso... Mio obiettivo ora è occuparmi di me, questo è il mio obiettivo. Ma tu sei solo o hai famiglia? Ho una compagna. Oh, ok, lei lavora? Sì. Ma e tu che cosa, come passi la tua giornata, Mauro? Adesso sto risistemando casa. Quando casa sarà sistemata? Te lo stai nascondendo, eh? Oddio, non voglio pensare quando avrò sistemato tutto. Diciamo che, non lo so, quello che capiterà, quello che mi piacerà, ecco. Ecco, esatto, dimmi, tu forse non hai una lista di desideri, però una volta che hai realizzato questo, cioè basta lavorare, ci avrai delle cose che vorrai fare e per cui adesso finalmente hai il tempo? Sì, faccio molto sport, cosa che prima non facevo, ho incominciato ad andare a teatro, cosa che prima non facevo, leggo, frequento i posti, e anche solo andare in giro per la città è una cosa stupenda. Tu quanti anni hai, Mauro? 49. Cioè, quindi hai ancora metà della vita davanti, pensa che meraviglia, senza lavorare. Sì, mi sento molto molto fortunato. Beh, dalla tua voce non si direbbe, però io sono convinto che troverai una ragione. Mauro, grazie mille. Grazie a te. Ciao e buona giornata. Ci abbiamo tempo per un'ultima, vero? Allora, Alfredo. Pronto, Alfredo? Pronto. Ciao. Senti, ciao Matteo. Sì, ti sento e ho un minuto solo, ma tu ce la farai in un minuto, secondo me. Speriamo, dimmi. No, dimmi tu, raccontami la tua esperienza. La mia esperienza te la dico proprio velocemente, ha a che fare con la musica. Nel senso che io mi sono innamorato del Portogallo, e mi sono innamorato di un famoso gruppo portoghese, posso dire il nome? Certo. Madre Deus, ok. Sono fantastici, ho avuto modo di conoscerli qua a Milano, poi è nata un'amicizia, mi hanno invitato ai concerti là, io andavo già in Portogallo, È nata un'amicizia che dura tuttora con corrispondenza, mail, telefonate ogni tanto, ora non sono più assieme tra l'altro, purtroppo, ecco. E io sono innamorato di quel paese e spero molto velocemente di trasferirti. Che cosa fai nella vita qua, Alfredo? Guarda, io faccio l'autista per ragazzi disabili. E quindi pensi di poter fare questo mestiere anche là? No, sto studiando, cioè ho qualche idea su cosa fare poi là. Però insomma... Però incrocio le dita. L'illuminazione è stata musicale, sono stati Madre Deus. Sì, assolutamente, e permettimi di dire che sono persone squisite. Bene, mi fa piacere. Alfredo, grazie mille, buona giornata. Anche a te. Ciao, grazie. Ringrazio lui, ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini e Vittoria Mussini. Oggi sono andato dal dentista, mi sono sparato una bella anestesia e mi sto godendo finalmente il dolore che sta passando. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?